feste da te spergiura che tu servi al consorte, così guardi a mio figlio il prezioso onore d'una libera morte. E quando mai ti insegnò tal viltà la gloria mia? Or vanne e porgi ancora a romano carnefice la spada, perché fiero e crudele in quel tenero sen tutta l'imberga. Vanne, anzi resta, io tolgo agli occhi miei l'orror di quel sembiante codardo, abominevole, funesto. Alla pena dovuta, no, no, non fuggirai. T'attendo, spettro vendicator, alma sdegnata, a degli equisi, in su le nere soglie. Sposo, farnace, addio! Non mi sei moglie!